Stamattina mi sono svegliato col sonno. Sai quei giorni che non hai voglia di fare veramente una ceppa? Ecco, oggi. Quello che mi piace. Stop, wait, be the one in the nutty, bitch, please. quello che mi piace, il teatro elettronico su M2O. Psicoterapeuta scrive alle donne: a letto impariamo dagli uomini, ma non troppo. Molte donne non riescono a lasciarsi andare per paura di essere usate. Tutta colpa dei neuroni, che non per niente fa rima con. Tuttavia, scindere il sesso dai sentimenti si può. Impariamo a farlo con l'aiuto dell'esperta, che è questa qui. Nessun dramma se il giorno dopo non arriva un suo SMS di lui. Ma non calpestiamo la nostra vera natura. Maialine. Quello che mi piace. Concetto.

quello che mi piace, il teatro elettronico, su M2O. Quello che mi piace. Make your escape, you're my own papillon. The world turns too fast, feel love before it's gone. It kicks like a sleep twitch. My papillon. Like a sleep twitch. Sleep twitch. We'll be right back.

ogni sabato pomeriggio qui su M2O si zomba. Let's go. quello che mi piace. Like.

Ecco perché ritengo che sia più che probabile. La danza. La danza. Música. Danza. Camina con la danza. Música. Música. Camina con la danza. Las manos con la danza. Música, la danza. Teatro elettronico. Especially